Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Allora, le solite e rituali informazioni di servizio. La prima riguarda la possibilità di consultare il nuovo sito di Radio 24, che è radio24.it ovviamente, nel quale è possibile non soltanto consultare meglio le trasmissioni e ogni singola puntata, ma scaricarle agevolmente. C'è la possibilità anche di abbonarsi al podcast. Insomma, vi invito a visitare radio24.it, li troverete anche nel mio profilo e quindi nella mia trasmissione anche il blog Guardie o Ladri, che trovate con un motore di ricerca oppure basta andare sull'home page del Sole 24 Ore. Ultima informazione di servizio, è la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it, alla quale scrive per segnalare i vostri casi. Lo ripeto mille volte, non amo casi personali. Di volta in volta però ne prendo alcuni che è vero sì che magari non coinvolgono un enorme numero di persone, ma sono comunque esemplificativi di un malessere, di una disfunzione, di un qualcosa che non funziona nei rapporti, segnatamente tra collettività amministrate e amministratori. E oggi proprio parliamo di questo, parliamo di un servizio, di un disservizio, di qualcosa che non va tra chi? Tra un comune, 4.000 abitanti, un piccolo comune in provincia di Frosinone che si chiama Esperia, e le amministrazioni coinvolte da quella che in una mail che ci è stata inviata in redazione loro hanno chiamato una fogna a cielo aperto. Allora, questi cittadini che ci hanno scritto si ritrovano intorno alla persona che ha avuto l'intuito di scrivere a Radio 24, che è Costantino Moretti, che è il nostro ascoltatore. Buongiorno Moretti. Buongiorno a tutti. Allora, lui ha segnalato il caso di questa via, di questa strada, in questa frazione di questo paese in provincia di Frosinone, e la persona che abbiamo chiamato a rispondere, a interloquire con un suo concittadino è proprio il sindaco di Esperia. Fateci bene caso, il cognome è lo stesso. Moretti si chiama il radioascoltatore, Giuseppe Moretti si chiama il sindaco di Esperia. Buongiorno sindaco Moretti. Buongiorno. Allora, io per praticità, l'uno, il radioascoltatore, lo chiamerò Costantino, l'altro lo chiamerò Giuseppe, perché altrimenti non si capisce. È un caso di omonimia ma nessuna parentela. Allora, Costantino, il nostro radioascoltatore, che cosa accade in questa via? Perché l'avete definita fogna a cielo aperto che non vi permette di socializzare, di vivere? Insomma, che cosa accade? Ma succede che in questa frazione, in un centro abitato, nel 2010 abbiamo una fogna a cielo aperto che è destata dai problemi che possiamo pensare, e d'inverno con le piogge abbondanti i liquami fuoriescono dalla fogna ed invadono un fossato qui vicino, sempre in un centro abitato. Ecco, ma succede da quando? Da ieri, da oggi? No, succede da prima del 2005. Noi abbiamo fatto una raccolta firme nel 2005, abbiamo avvisato gli enti preposti, a cominciare dall'ASL che ha fatto un sopralluogo, ma da allora non è successo niente, nessuno ancora ha messo mano a questi tombini, a questa fogna a cielo aperto. Senta, visto che a me piace preparare le trasmissioni nella lettura di quello che ricevo e gli approfondimenti possibili, ma mi piace molto l'improvvisazione, il discorso diretto, il colloquio diretto, perché altrimenti sembra una farsa, le chiedo, ma non è che voi per caso lì siete tutti abusivi, quindi avete edificato per cavoli vostri e dunque la rete fognaria e quant'altro non avrebbe ragione di esistere se non dopo un successivo condono e quindi dopo che il comune è intervenuto con opere di miglioria e via dicendo? Siete tutti in regola oppure avete la coda di paglio? Siamo tutti in regola, paghiamo normalmente le tasse, paghiamo tutto. No, ma in regola vuol dire che voi avete edificato secondo un piano regolatore oppure? Sì, ecco. Noi abbiamo edificato secondo un piano regolatore. Questo impianto fognario è nato dopo queste abitazioni che stanno in questo centro abitato e serve non a questo centro abitato ma a raccogliere le fogne di altre palazzine. Benissimo, allora questa è la voce di chi protesta chissà quante fogne a cielo aperto ci saranno, basta vedere anche i telegiornali, i servizi che a volte si fanno, perché ci rendiamo conto che obiettivamente non è un caso limitato a Monticelli di Esperia, questo piccola frazione di questo comune del Frusinate. Allora, Giuseppe Moretti, sindaco, chi meglio di lei può raccontarci che cosa sta accadendo in quella frazione del suo comune? Io credo che Costantino ha già abbia detto come stanno i fatti. Innanzitutto io vorrei precisare questo: non è una fogna a cielo aperto, perché quando si parla di fogna a cielo aperto si pensa a scarichi che avvengono a cielo aperto da fosse comune e così via. In questo caso c'è una conduttura. Io ho ereditato, sono sindaco del 2006, ho ereditato una fogna costruita precedentemente dal comune, quando le fogne venivano gestite dal consorzio dell'acquedotto degli Aurunci, una fogna realizzata nel letto di un torrente. Allora, sindaco, in Italia tutti ereditano qualcosa da qualcun altro. No, a me non interessa questo. Io voglio mettere un punto fermo. Lei parla, ma decido io quando. Allora, il punto fermo è questo: il 2006 è il 2010, quindi non è che può dire ho ereditato nel 2006. Questa è una scusa che non regga. Ora vada pure avanti. Allora, io insisto a dire che ho ereditato un'opera pubblica realizzata, e l'ha detto lo stesso Costantino prima che io fossi amministratore. Si tratta di un tratto di fogna abbastanza lungo che, siccome è localizzato nel letto di un torrente, quando piove questa conduttura va acqua piovana, per cui si alza il livello della fogna e si alzano i tombini. Va bene, questo qui è d'accordo. Poi ci siamo. Volevo precisare un altro aspetto. Costantino fa bene a rivolgersi al sindaco, io sono felice di accogliere le sue giuste lamentele, ma l'interlocutore non è il sindaco, l'interlocutore in questo caso è Acea Ado 5, che è il gestore e manutentore delle fogne della rete idrica. Ecco, però siete voi che dovete avere rapporti con l'Ato. Allora noi, come comune, abbiamo svolto fino ad oggi tutto quello che è il nostro potere. Abbiamo chiamato innanzitutto Acea, la chiamiamo sempre tutte le volte che questa fogna si intasa, l'abbiamo chiamata per le opere manutentive ordinarie e straordinarie, e abbiamo invitato Acea Ado 5 ad investire nel comune di Esperia, in particolare in questo tratto di fogna, per modificarla, realizzarne una nuova, in modo tale da evitare questi spiacevoli inconvenienti. Allora, adesso le faccio un secondo, sindaco, le faccio una domanda. Voi avete invitato, avete chiamato Acea e via dicendo, però il suo compito, al di là del chiamare, sicuramente che è lodevole, è risolverli i problemi. Allora, quando pensate di risolvere questo problema, che non dipende da voi, dipenderà da qualcun altro, come sempre accade in Italia, ma quando risolverete questo problema? Allora, lei, visto che insiste, non vuole capire, vuole creare il caso. Guardi, io sono un ragazzo di modestissima. Sindaco, mi scusi, un secondo, taccia un attimo per piacere. Allora, io sono un ragazzo di modestissima intelligenza, purtroppo, ma di natura non mi ha dotato di grande intelligenza. Però le domande le faccio io. Lei non deve eludere, deve rispondere. Se vuole rispondere, bene, altrimenti la ringrazio, ma la ringrazieranno anche i suoi cittadini. Ora risponda, esatto. Sindaco. Lei chiami Acea Ado 5. Io sì. Per quello che riguarda la mia amministrazione. Quindi lei si sente perfetto. Quindi lei tutto quello che è il suo potere l'ha fatto. La colpa è sempre di qualcun altro, giusto? La colpa di qualcun altro. Io mi prendo le colpe per quando se c'è una buca su una strada comunale. Io mi prendo la colpa, perché la manutenzione e la realizzazione di quella strada è del comune. In questo caso la realizzazione di una fogna, la manutenzione di una fogna della rete idrica è di Acea Ado 5, non è del comune di Esperia. Ho capito, quindi per lei va bene così, può continuare a essere... No, per lei va bene così. Io sbalco da sindaco, lei è inutile che cerca di mettere la castagna sul fuoco. No, io ne metto due di castagne, guardi. Io sto dalla parte dei miei cittadini. Io ne metto anche due. Dalla parte di Costantino Moretti. Perfetto. In quanto sto chiedendo ad Acea, come fa Costantino, giustamente... Sì. Sì. E coloro che abitano vicino a Costantino, la soluzione di questo problema. Sì, secondo me ci vogliono tante risorse. Secondo me lei sta facendo soltanto chiacchiere e basta, non sta risolvendo niente. Detto questo, che è una mia impressione, Moretti Costantino, lei che cosa ne pensa? Chiacchiere o distintivo? Chiacchiere, io non posso dire che il sindaco faccia chiacchiere perché lo conosco benissimo e so che lui è un buon amministratore, solo che il problema è un altro, è che questo è un problema che deve risolvere il sindaco, perché la salute pubblica... Va bene, basta così Costantino. Allora, sindaco Moretti, è stato chiarissimo, chiacchiere o distintivo da parte sua? Le chiacchiere le fa lei, caro signore. Io vengo pagato per questo. Invece... pagato. Io non vengo pagato perché faccio il sindaco gratuitamente. E il fatto è che la fogna è a cielo aperto e la colpa è del lato 5, giusto? Lei voleva dimostrare... Io non devo dimostrare niente, a me le tesi non interessano. Vi ho messo apposta a parlare, altrimenti non l'avrei chiamata. La ringrazio di questo, ma le posso assicurare che continueremo a trattare il caso chiamando anche lato 5, così almeno vedremo se effettivamente... Come non ho motivo di dubitare, la colpa sarà del lato 5, ma sono sicuro che quando li chiameremo diranno che la colpa è di qualcun altro. Grazie ai nostri due interlocutori, in regia Pietro La Corte, in studio Elisabetta Fusconi, e Roberto Galullo vi dà appuntamento ad una nuova puntata quando magari sentiremo anche lato 5.